Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo a lunedì ed eccoci ancora insieme con l'Adico di Mestre, quindi saluto Gianluca Codognato che è con noi al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco. Allora, anche oggi ritorniamo su un problema che è proprio di questi giorni e che è il famoso discorso della conversione lire-euro, cioè ci sono veramente tantissimi cittadini che, mettendo a posto la casa del nonno che ahimè magari se n'è andato oppure è stato spostato all'ospizio o via dicendo, magari vendendo quel mobile antico che si aveva in un angolo della casa e che non serviva più, si è trovato nel cassetto nascosto sotto alla carta che proteggeva tutte le stoviglie, insomma si sono trovati tanti soldini e c'è ancora gente che vorrebbe riuscire a cambiarli. Sì, assolutamente, ci sono tantissime persone che appunto hanno trovato le vecchie lire in qualsiasi posto, nel ripostiglio, nella cassaforte, insomma un po' ovunque, soprattutto sono frutto di eredità, di lasciti di anziani nonni, zii, eccetera. Allora, c'è da dire che la questione è molto calda. Noi, tra l'altro, Francesco, in questi giorni abbiamo inviato un 149 per essere precisi, istanze sì. di conversione alla Banca d'Italia. Attenzione però, noi stiamo chiedendo la conversione per chi l'aveva anche chiesta a suo tempo, non per chi ha trovato i soldi in questi ultimi giorni, o diciamo sì. in questi ultimi anni anche, nel senso che è chiaro che chi li ha trovati adesso ha ben poche possibilità di vedersi di convertire. Noi stiamo tutelando gli interessi di chi vuole, che aveva chiesto a suo tempo di convertirli, ma non ha potuto farlo perché il governo Monti ha anticipato i tempi della prescrizione, e di 3 mesi esattamente, ciò che è stato contestato appunto dalla Corte Costituzionale. Ecco, c'era questo discorso del, credo, del 28, no? Sì. Era lo scorso giovedì, l'ultimo giorno buono, teoricamente. Esattamente, era lo scorso giovedì, noi abbiamo calcolato queste tempistiche, anzi il nostro ufficio legale ha calcolato le tempistiche basandosi su calcoli di prescrizioni, per cui abbiamo calcolato 3 mesi da quando è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale. Quindi per noi giovedì scorso era l'ultimo giorno per inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno alla Banca d'Italia chiedendo la conversione delle banconote. Quindi noi in questo periodo non stiamo più assistendo iscritti, non stanno più assistendo risparmiatori, perché a nostro giudizio la conversione verrà concessa solo a chi l'ha richiesta entro il 28 gennaio. Ho capito, quindi mi stai dicendo che se qualcuno trova adesso dei soldi la cosa è particolarmente complicata, se non impossibile. Allora, Francesco, in realtà la sentenza della Corte è chiara e non parla assolutamente di cittadini che hanno diritto e cittadini che non hanno diritto a farsi cambiare le banconote. E la Corte dice semplicemente che è stato illegittimo anticipare di 3 mesi quella conversione. Quindi per quanto ci riguarda tutti possono avere questa possibilità. È chiaro che la Banca d'Italia, che già sta facendo ostruzione, si sta un po' anche arrampicato sugli specchi, chiaramente secondo me porrà un grosso veto comunque a chi dice di aver trovato le banconote in questi giorni o comunque dopo febbraio 2012. Ecco, la Banca d'Italia aveva fatto anche una circolare, no? Sì, infatti è qua che casca un po' l'asino, nel senso che la circolare della Banca d'Italia è proprio, come ti dicevo prima, un tentativo di arrampicarsi sugli specchi. Perché? Perché praticamente per evitare di dover risarcire centinaia di risparmiatori dice sì, noi procediamo al cambio, alla conversione, però solo di quelle persone che hanno chiesto il cambio in quei 3 mesi famosi che sostanzialmente Monti ha tolto. Sì. Quindi da dicembre 2011 a febbraio 2012. Quelli sono quei 3 mesi che teoricamente rientravano nella prescrizione, che però con l'anticipo deciso da Monti sono stati eliminati. Cosa succede? La banca dice io cambierò i soldi solo a chi mi ha chiesto di cambiarli in quei 3 mesi là. Ma noi diciamo, ma se in quei 3 mesi non si poteva cambiare, non sarà andato nessuno a chiedere di convertire i soldi, perché comunque non si certo. poteva. Chi è andato, tra l'altro, Francesco, e ne abbiamo tanti che ce l'hanno testimoniato, chi è andato allo sportello non è che abbia avuto un foglio che testimonia appunto che è andato a chiedere la conversione, quindi in realtà com'è che si può dimostrare di essere andato in quel periodo? È chiaro che insomma questo è un tentativo di risoluzione che non accetteremo in nessuna maniera, tant'è che adesso lo stesso Ministero dell'Economia è intervenuto dicendo che integrerà assolutamente questa circolare della Banca d'Italia, perché palesemente pone il fianco ad altri centinaia di ricorsi. Ecco, noi come Blu Radio Veneto, voi come Associazione Difesa Consumatori, abbiamo più volte lanciato il messaggio in questo periodo in maniera che chi si fosse attardato potesse riuscire in qualche modo a recuperare e a cambiare queste lire in euro, ma adesso veramente da oggi non c'è più niente da fare. Guarda, Francesco, allora un calcolo basato sulla giurisprudenza pura, sì, ed è fatto dal nostro ufficio legale. Poi chissà che magari qualcuno, una Banca d'Italia o il Ministero, non dica sì, convertiamo e allunghiamo i tempi per la richiesta, ma non credo proprio che succederà questo. Ecco, però se qualcuno si trova questi 3-4 milioni di vecchie lire, insomma non buttateli, non usateli per accendere il fuoco del caminetto, perché magari... una speranza. Io direi questo, Francesco, come suggerimento. Sì. Chi si è preso in ritardo e non è riuscito a fare la richiesta entro il 28, in ogni caso ci provi lo stesso. Comunque è il costo di una raccomandata in questo momento. Certo. Quindi insomma vale assolutamente la pena tentare. Va bene, gli uffici dell'Associazione Difesa Consumatori sono dell'Adico, sono sempre aperti. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a te Gianluca per averci così ancora illuminato un po' su questa vicenda che secondo me continuerà ancora per molto. Ciao, grazie. Grazie a te, grazie a te. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.